Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Delle disgrazie del valore di scambio promesse parleremo la settimana prossima. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione, grazie al provvido Cristiano Valli per la regia. L'appuntamento rimane confermato domenica prossima alla medesima ora. Buona giornata a tutti. Ci sentiamo.